Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Quest'oggi è stato presentato l'ultimo rapporto dell'Osservatorio dell'Innovazione Digitale in Sanità, curato dalla School of Management del Politecnico di Milano. La sanità rappresenta uno dei più importanti comparti dell'economia, con quasi il 10% del PIL, pur essendo in realtà l'Italia uno dei paesi con la più bassa spesa sanitaria pro capite d'Europa. Spesa che comunque è destinata inesorabilmente ad aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione e conseguentemente per la sempre maggiore incidenza delle patologie cosiddette croniche, come il diabete, insomma le malattie cardiocircolatorie, il cui monitoraggio già oggi drena la stragrande maggioranza delle risorse economiche dedicate alla sanità. In Lombardia siamo sopra l'80%. La digitalizzazione rappresenta una grande opportunità per rendere in questa situazione un po' pericolosa, diciamo, la macchina della sanità, che rischia di implodere sotto il proprio peso, capace, insomma, di rimettersi a camminare. Vediamo allora a che punto siamo con questo processo di digitalizzazione, con l'aiuto di Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità. Buonasera Corso. Buonasera. Allora, intanto un macro dato subito: la spesa di ICT nella sanità nel 2015. Nel 2015 abbiamo registrato 1,34 miliardi di euro investiti sulla sanità digitale, quindi leggermente meno del 2014, che però era stato un anno di boom. Quali sono i settori della sanità digitale in cui si sono concentrati gli investimenti e quindi si spera anche dove ci sono servizi più sviluppati? Ecco, gran parte delle risorse ancora oggi vengono investite a livello di aziende. Le aziende... aziende ospedaliere. Aziende ospedaliere, scusate. E gran parte di questi investimenti vanno sulla digitalizzazione di base, quindi le cartelle cliniche elettroniche e la dematerializzazione dei documenti clinici. Quindi è ancora una informatizzazione di primo livello. Dicevamo la cartella clinica elettronica, quindi la cartella clinica è quella roba che ti accompagna quando vieni ricoverato, per la durata del ricovero, su cui finiscono tutte le informazioni. Poi qualche numero, per esempio, quante ricette sono ormai passate alla versione elettronica, quante prenotazioni, quanti referti vengono consegnati in forma elettronica? Sono le tre interazioni principali poi dell'utente col sistema sanitario. Allora, abbiamo il 72% delle ricette che oggi sono dematerializzate, con punte anche molto importanti. Il 40% dei referti oggi sono dematerializzati, e quindi c'è un, come dicevo, le prenotazioni online stanno crescendo moltissimo e anche i pagamenti online stanno crescendo moltissimo. Quindi gli italiani, dove vengono offerti dei servizi che siano semplici da utilizzare, ben comunicati, d'accordo, anche se sono servizi li usano e come. D'accordo. Ecco, con un paio di altri numeri: 12% di prenotazioni complessivamente effettuate sono state via online, 16% totale dei referti consegnati sono stati online. Sembrano numeri piccoli, ma in realtà c'è una crescita evidente. Ecco, veniamo invece ai capitoli, ai servizi sui quali invece le cose vanno a rilento. Ecco, vanno a rilento su alcuni investimenti, come quelli in telemedicina, ad esempio, o sul fascicolo sanitario elettronico, sui quali molta della strategia degli esperti si basava. Cioè sullo Spieghiamo cosa sono questi due oggetti. Il fascicolo sanitario elettronico è? Fascicolo sanitario elettronico è quella piattaforma su cui il cittadino potrà ritrovare non solo la sua documentazione, ma anche l'accesso a quelli che sono i servizi, quindi è un contenitore ma anche una piattaforma di servizi. Cioè, quindi la storia sanitaria del cittadino finisce tutta lì dentro, ma diventa anche il perno su cui ruotano tutti i servizi sanitari, appunto digitali, no? E a cui possono accedere i diversi operatori, integrando quindi la loro vista sul paziente. Medico di famiglia, specialista e così via. E poi c'è la telemedicina, che è la grande scommessa, cioè quella di portare questo monitoraggio dei cronici, che costa così tanto, a casa loro, migliorando il monitoraggio e abbattendo notevolmente i costi. Qui si spende pochissimo, 20-30 milioni spesi in un anno, sono cifre ridicole. Sono cifre ridicole anche a fronte di quelli che potrebbero essere i benefici. Grandi benefici. E come mai qui questa lentezza su questi temi? Questo è un po' insito nel modello del sistema sanitario italiano, che è molto frammentato. Allora, quegli attori che possono avere una visione di sistema in realtà hanno scarsa capacità di spesa. Che hanno beneficio da questo tipo di servizi, che sono servizi di insieme, no? In qualche misura. Esattamente, quindi banalmente darebbero dei risparmi, ma le strutture sanitarie, che sono quelle che oggi hanno gran parte delle risorse, non hanno un beneficio diretto, anche perché dovrebbero investire, e a oggi ad esempio non sono stati ancora chiariti quali sono le modalità di rimborso delle prestazioni in telemedicina. Ecco, un'ultima domanda, ti chiedo una risposta lampo. C'è sempre questo desiderio latente di ridurre la spesa sanitaria, anche se abbiamo visto che non è poi così alta in Italia. Ecco, ma è immaginabile una riduzione della spesa con questa trasformazione contemporaneamente da affrontare? Non richiede invece delle risorse? No, non si può oggi pensare davvero di ridurre la spesa sanitaria, si deve pensare a modernizzarla e qualificarla in modo da tenerla sotto controllo. Va bene, grazie Mariano Corso. Grazie, buonasera.